qualche settimana fa scherzavamo. Non era mica vere quelle preoccupazioni che io e l'Oliva esternevamo nel momento in cui riflettevamo pensosi di fronte alla cassetta delle lettere, pensosi per quella che era stata la risposta dei numerosi ascoltatori alla nostra iniziativa di Caccia Vostra, una rubrica tutta a voi dedicata in cui finalmente avreste potuto mandarci una cassetta già registrata e noi semplicemente avremmo potuto mandarla in onda per arrivare a quel massimo di comunione che d'altra parte una trasmissione come la nostra ha implicito in sé. Non era mica vere quelle preoccupazioni. Siamo pieni di cassette, siamo pieni di cassette che stanno arrivando da tutte le parti. Soprattutto fra questa dovizia di cassette, diciamo che una l'abbiamo scelta con cura. L'unica, ahimè, vabbè, è l'unica. Però dobbiamo veramente ringraziare Margherita Gonzalez per avercela fatta capitare. Caccia Vostra, quindi oggi ha il suo battesimo. Vai. Metta su casa. Non so se avete mai avuto a che fare con la ristrutturazione di un appartamento, cioè con un genere di attività di tipo pratico che migliaia di persone compiono normalmente, ma che quando capitano a voi assumono un vago senso di straordinarietà. La faccenda poi si complica se avete a che fare con un muratore positivista, un imbianchino costruttivista e un idraulico la cui figlia si è appena iscritta alla facoltà di psicologia e, ponendosi il problema di andare incontro alle esigenze dei figli, sta leggendo il linguaggio dell'S di Grodek. Il progetto è chiaro: ricavare due bagni da uno esistente, tinteggiare pareti e infissi, lamare i pavimenti, oltre ai soliti lavori imprevisti, annessi e connessi. Il muratore dice «Che pensi mi?», intendendo con ciò, presumibilmente, che non esistono bagni e quindi ostacoli che si frappongano tra il suo io e la volontà di giungere ad un bagno finito. Intonaco ben lisciato, come un viso appena sbarbato la mattina, piastrelle solidamente applicate, una vicino all'altro come i tasselli del domino, gli elementi bianchi e lucenti, perfettamente funzionanti, in uno scroscio d'acqua che farebbe ricordare un torrente di montagna in prossimità di un ghiacciaio. Se non che l'imbianchino espone brevemente quale sia la disputa secolare tra le due seguenti scuole di pensiero. L'imbiancatura delle pareti deve A. precedere la lamatura dei pavimenti, B. seguire la lamatura dei pavimenti, perché nel caso A può accadere che il malaccorto addetto alla lamatura A1 urti con forza il muro immacolato con uno dei suoi diabolici macchinari, A2 sfiori appena ma con danno irreparabile il muro stesso, con il fetido pennello maleodorante di vernice. A3 continui a ripetere, mentre esegue il suo lavoro, ruotando lo sguardo tra il soffitto e le pareti, che schile mica un imbianchino, era meglio che lo faceva il Giovanni, costava anche di meno, introducendo un elemento di analisi del mercato e dell'analisi marxiana dello scambio denaro-forza-lavoro in assenza di scontrino fiscale. Nel caso B, cioè quando l'imbiancatura segue la lamatura, può accadere B1, che l'imbianchino urti con forza il pavimento appena lucidato, liscio come un settimanale in carta patinata, facendo, con qualche maldestra operazione assimilabile alle gesta circensi, cadere la scala o il secchio con la vernice. B2, sfiori appena il pavimento stesso con il fetido pennello maleodorante di smalto per gli infissi, in modo che il padrone di casa, capitato lì in quel momento, dica «Ma come lavorano male, io non li pago». B3 continui a ripetere, mentre esegue il suo lavoro, abbracciando con lo sguardo l'intero pavimento, che stile minga un lavoro serio, era meglio che lo faceva mio cugino, costava anche di meno, introducendo un elemento di analisi del mercato e dell'analisi marxiana dello scambio denaro-forza-lavoro in assenza di scontrino fiscale. L'idraulico, a sua volta, esprime dei dubbi assolutamente interessanti. Se sia lecito, per delle persone di media cultura e provviste di un senno accettabile, provocare degli scompensi psicopercettivi agli eventuali ospiti, magari in alcuni casi anche minori, ricoprendo il bagno con delle piastrelle gialle e rosse e creando con ciò un ambiente non corrispondente all'idea simbolica di tranquillità e rilassatezza necessario allo sviluppo equilibrato della psiche e soprattutto in contrasto con la composizione del resto dell'appartamento, che esprime naturalmente a livello inconscio un'idea di accoglienza, calore e tranquillità. Aggiungo un mio pensiero per inciso, ponendomi un quesito degno di meritare la vostra attenzione e riflessione. Chiedo anche a voi, cari e fedeli ascoltatori della Caccia e di Radio Popolare, se ricavare due bagni da uno solo non sia il frutto del pensiero dominante degli anni Ottanta, che ha portato anche dei bravi compagni a ragionare e a vivere in un modo che definirei, senza peli sulla lingua, grettamente borghese. Una cosa è certa, la scelta dell'elettricista cadrà indubbiamente su un soggetto assolutamente impermeabile alle tematiche dell'ideologico quotidiano e potrà ottenere un impianto elettrico degno di questo nome o, per usare un modo antico, che marci come un orologio svizzero, il che mi permetterà, non mi vergogno ad ammetterlo, di ascoltare degnamente la radio tutti i martedì dalle 20.30 alle 21. Musica a tutto volume. Comunico a Margherita Gonzalez, dopo aver ascoltato con devozione il suo intervento, che allora dopo lo scritto di Piero Sraffa, caposaldo della letteratura economica, produzione di merci e mezzo di merci, finalmente avremo, proprio grazie alla penna della Margherita medesima, il prossimo volume, produzione di bagni a mezzo di bagni.